Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo l'indirizzo mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore. Guardie o ladri, lo trovate anche digitando un qualunque motore di ricerca. Allora, mentre noi siamo qui comodamente seduti nelle nostre poltrone, nelle nostre città, affaccendati in chissà quali problemi, in questo momento a Reggio Calabria, splendida città, vi invito a visitare perché è meravigliosa, da qualche settimana nel silenzio totale dei media nazionali, questo gli va detto, insomma, perché poi la Calabria fa notizia soltanto quando si spara. In questo momento a Reggio Calabria alle prese con un problema, è tutta la Calabria con un problema che io definisco molto molto serio, vale a dire il restauro e l'eventuale trasferimento dei bronzi di Riace. L'avete presente, no? Quei due meravigliosi soldati, io li ho visti, devo dire che si rimane incantati di fronte alla perfezione della scultura, che vengono ospitati nel museo al centro della città, vicino al mare, a Reggio Calabria. E in questo momento perché c'è questo grandissimo movimento intorno a queste due splendide statue? Perché il museo ha bisogno di essere rivisto, restaurato, rimesso in ordine, insomma ha bisogno di un qualcosa di più, di un forte maquillage. E gli stessi bronzi di Riace hanno bisogno di essere manutenuti. E si è scatenata una bagarre tra Reggio Calabria e Roma, perché Reggio Calabria, io riduco in soldoni ovviamente in sintesi, poi sentiremo i nostri ospiti, dice: bisogna restaurarli? Benissimo, li teniamo qui, li ospitiamo magari nella splendida sede tecnologica del Consiglio regionale. Roma dice: no, mandateli qui, li restauriamo e poi ve li ridiamo. Insomma, un bene prezioso dell'Italia, ma che comunque viene conteso fra una regione e il resto appunto d'Italia. Per parlare di questa, che è una vicenda, dico, delicatissima, perché stiamo parlando di un'opera, anzi di due opere meravigliose, abbiamo con noi ospite il presidente del Consiglio regionale della Regione Calabria, Giuseppe Bova. Buongiorno Bova. Buongiorno. E abbiamo ospite anche un editore di una tra le più importanti emittenti private della Calabria, Reggio TV, che è Edoardo Lamberti Castronuovo. Buongiorno. Buongiorno a lei, ascoltatori. Allora, partiamo da Bova, che è già stato nostro ospite nel passato. Bova, perché vi vogliono rubare, tra virgolette, per carità di Dio, i bronzi di Riace? Ma sa, di opere d'arte come queste al mondo ce ne sono 5. Due sono in Italia a Reggio, il resto sono in Grecia, no? Quindi sono opere d'arte che non ha nessuno, e quindi è possibile che si pensa che per noi è un lusso. Ecco, lei ha scritto anche al ministro per i beni culturali, vado per intuito, non le ha risposto? Ma io ho semplicemente detto che la proposta avanzata al ministro è figlia di due cose: di continuare a fare a Reggio quello che si era sempre fatto, perché i check-up sono sempre stati fatti a Reggio. Secondo, rafforza questa mia ipotesi il fatto che in 6 pagine di diagnosi proprio i ricercatori dell'Istituto Centrale di Restauro nel 94 hanno detto: attenzione, non solo il check-up, ma anche l'eventuale restauro si deve continuare a fare qui senza spostare queste opere d'arte, perché è delicatissimo intervenire spostandoli. E io sono d'accordo. Le opere alto. E io sono d'accordo con lei. Ora le faccio una domanda che poi replicherò per il nostro secondo ospite. Vale a dire, ma perché Roma dovrebbe in questo momento scippare queste due meravigliose opere d'arte? Cioè, che cosa c'è dietro? Ma che cosa può scattare nella mente di una struttura ministeriale per dire: i bronzi li togliamo da Reggio e li portiamo a Roma? Ma secondo me si tiene in pochissimo conto le ragioni di questa terra poi nei fatti. Guardi, io so che in mare viene fuori, e ne parlano i media del mondo, no, che i mari della Calabria sono piene di navi a perdere, rischiosissime, perché ci sono rifiuti tossici, e nessuno finora è intervenuto. da un lato. Dall'altro lato si tende a sottrarre quel poco di risorse che c'è. Per me 2 più 2 fa 4. Ho capito. Quindi, come dire, insomma, una certa volontà nel tenere nell'ombra o in una zona nera una regione che invece ha moltissimi lati positivi. E allora dire, io avverto quasi che qui si è meno Italia. Questo purtroppo molti lo pensano, ma così non è ovviamente. La stessa domanda la faccio all'editore di Reggio TV. Intanto ricordo anche il loro sito www.reggio.tv in cui troverete degli approfondimenti ovviamente su questa vicenda e troverete anche, ma poi ci veniamo a 10 domande, vanno di moda, che l'editore pone ai nostri governanti. Lamberti Casonuovo, le chiedo: che cosa c'è secondo lei dietro questa scelta di portare i bronzi da Reggio a Roma? Non è la prima volta che si tenta in qualche modo di, come dire, uso un termine grosso, di defraudarci di questa nostra risorsa. La scusa ufficiale è che qui da noi solo 130.000 persone l'anno vengono a vederli. E quindi la scusa ufficiale propone loro l'idea di portarli a Roma per esporli là. La nostra preoccupazione, il motivo per cui abbiamo dato vita a questa popolare, diciamo, protesta, popolare nel senso di popolo, certo, è proprio questo, perché vede, tutto nasce dai nostri giornalisti che sono riusciti a scoprire che nel museo si stavano predisponendo le lettighe, quelle lettighe non sono altro che diciamo i supporti che servono per il trasporto dei bronzi. Trasporto che, come ha correttamente detto il presidente Bova, è assolutamente vietato da una certificazione della Sovrintendenza Archeologica della Calabria, la quale pone un veto assoluto. Allora, perché li vogliono portare? Perché ovviamente pensano di poter ottenere così un vantaggio per un'altra città, che non è detto che sia Roma. Ricordo che li volevano portare per il G8. Ricordo che li volevano portare per le Olimpiadi, cioè, pertanto ora i bronzi sono sicuramente delle statue di grandissima importanza, di grandissimo rilievo, ma io credo che sia opportuno sia per la terra calabra, sia per il valore che c'è nel museo di Reggio Calabria, che non è soltanto quello dei bronzi, il Kuros, la testa del filosofo, tutti i reperti. Ricordo che il museo di Reggio Calabria è l'unico museo della Magna Grecia. Io credo che sia opportuno che tutta la politica culturale italiana si muova per fare in modo che ai bronzi ci vengano, arrivino i turisti dalle altre parti del mondo e non i bronzi vadano dai turisti. Certo. Come è giusto per tutto d'altra parte. No? Ecco, il dramma è che lei lo sa che arrivare qui dalle nostre parti, dice, perché 130.000 persone? Perché arrivare qui da noi, vede, per prendere un aereo bisogna accendere un mutuo per i costi che ci sono, che sono proibitivi. Sì, mentre invece scendere in macchina bisogna accendere un cero. Ecco, bravo, bravissimo, questa battuta gliela rubo. Prego. Per arrivare con la A3 bisogna accendere un cero al santo, diciamo... Di transito autostradale. Appunto, non parliamo delle vie del mare, perché siamo esclusi, perché il porto di Reggio Calabria, pur essendo un porto importante, ma non è capolinea, chiamiamolo così, delle autostrade del mare, perché per poter andare per esempio a Salerno, bypassando la A3, o meglio quel che resta della A3, bisogna andare nella dirimpettaia Messina e poi prendere le cosiddette autostrade del mare verso Salerno o verso la Liguria addirittura. Ecco, Lamberti Casonuovo, parliamo dei treni, ecco. Dei treni bisogna, ecco, lì il cero abbiamo detto per l'autostrada. Lì invece che accenderlo bisogna portare lo zampirone. Assolutamente. Un sistema per allontanare le zecche. Allora, io intanto nel ringraziare il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Bova per il suo intervento e salutando anche lei, Lamberti Casonuovo, le faccio però, e ringraziandolo ovviamente, le faccio un'ultima domanda. Lei ha fatto 10 domande ai governanti. Otterrà risposta? Nei fatti. fatti, nei fatti, perché la prima delle 10 domande, ma chi ha stabilito che i bronchi debbono essere trasferiti a Roma e perché? Se non è stata fatta una diagnosi, se non sappiamo di che malattia sono malati, ma per quale motivo dobbiamo trasferirli a Roma? Assolutamente, assolutamente d'accordo, d'accordo con lei e con la sua analisi. Cari radioascoltatori, continueremo a seguire questa vicenda che è appassionante soprattutto perché il museo di Reggio Calabria e i guerrieri di Riace sono veramente due gioielli da visitare e da vivere, oserei dire. Grazie ai nostri ospiti, grazie in regia a Fabio Cantadori e in studio ad Antonella Migliaccio, e Roberto Calullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.